America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 dalle Nazioni Unite, dal Palazzo di Vetro, Mario Platero. Today I ask the world to join in this effort. Those who have joined ISIL should leave the battlefield while they can. Those who continue to fight for a hateful cause will find they are increasingly alone. For we will not succumb to threats, and we will demonstrate that the future belongs to those who build, not those who destroy. Barack Obama, lo avete sentito ieri, un discorso storico, un discorso in cui ha chiesto al mondo intero di unirsi con l'America, con la comunità civile per combattere il terrorismo. Non soccomberemo alla minaccia, ha detto Obama, dimostreremo che il futuro appartiene a chi costruisce, non a chi distrugge. Purtroppo chi distrugge è sempre dietro l'angolo. Sentiamo. His name, Hervé Gourdel, he was kidnapped on Sunday, so not held very long. The video is titled A Message of Blood for the French Government. Ecco, uno dei tanti newscasters americani, l'annuncio drammatico, orrendo, dell'esecuzione, dell'uccisione, della decapitazione di un turista francese, di Hervé Gourdel, proprio mentre Obama pronunciava il suo discorso contro il terrorismo alle Nazioni Unite, l'ennesima sfida, devo dire, tragica, perché l'ostaggio francese era arrivato in Algeria appunto sabato pomeriggio, domenica mattina è partito per un'escursione in montagna, nelle montagne settentrionali dell'Algeria, sono sentieri, percorsi normalissimi. Eppure ecco che i terroristi di un gruppo estremista locale, giunto al Khilafah, hanno colpito, lo hanno rapito, lo hanno tenuto prigioniero e ieri lo hanno sgozzato con il solito video che hanno trasmesso e distribuito su internet, video che peraltro poi è sparito subito. Ecco, Gourdel è un innocente di 55 anni, esperto camminatore, un turista francese. C'è un'escalation nel messaggio dei terroristi, un'escalation sotto molti punti di vista. Il primo è che chiunque può essere vulnerabile, non soltanto chi si era avventurato in territori pericolosi, dove c'era la guerra, dove rischiava davvero di essere rapito da forze nemiche o da forze terroristiche. No, in questo caso questo signore ha preso un aereo, è partito normalmente, è arrivato in Algeria, è andato a fare la sua passeggiata ed è stato ucciso. Il primo messaggio dunque è: ognuno può essere colpito. Il secondo messaggio è che il terrorismo non colpisce più soltanto in Siria, dove c'è l'ISIS o dove c'è il gruppo terroristico Karachan che gli americani stanno bombardando. No, c'è una linea diretta. Nel video si vedono i terroristi, dopo l'esecuzione, hanno la testa di questo poveretto in mano, leggono un proclama agghiacciante: abbiamo seguito le istruzioni dell'ISIS, quelle di rapire e uccidere gli occidentali, specialmente i francesi, dovunque possibile. Qual è la richiesta? Che i francesi la smettano di bombardare la Siria, dove c'è l'ISIS e dove c'è il gruppo terroristico erede di Al-Qaeda. Un messaggio analogo è stato diretto ai tedeschi, che i tedeschi facciano la stessa cosa, che non si alleino con gli americani. First, the terrorist group known as ISIL must be degraded and ultimately destroyed. This group has terrorized all who they come across in Iraq and Syria. Innocent human beings have been beheaded with videos of the atrocity distributed to shock the conscience of the world. No God condones this terror. Ecco, sentite di nuovo, il presidente americano ha presentato un piano in quattro punti. Questo è il primo punto, dice: l'ISIS dovrà essere distrutto, commettono atti orrendi. Nessun Dio ammetterebbe le loro azioni. L'unico linguaggio che capiscono è quello della forza. Useremo la forza militare per combattere l'ISIL in alleanza con tutti. Oggi chiedo al mondo di unirsi a noi per dichiarare guerra alla guerra. L'ISIS si nasconde dietro un falso Islam. Oggi adotteremo una risoluzione per eliminare l'estremismo violento. E difatti il Consiglio di sicurezza dell'ONU ieri pomeriggio ha poi adottato a maggioranza assoluta una risoluzione contro l'estremismo, contro il terrorismo, contro, diciamo così, i volontari combattenti, cioè quelle persone che dalle nostre case, con un passaporto italiano, francese, tedesco, americano, non importa quale, si uniscono a questi terroristi con l'obiettivo poi di tornare a casa come agenti portatori di distruzione e di terrore. Obama dunque ha chiuso il cerchio ieri che si è aperto a Newport. Chi mi segue e fin da allora, fin dai primi di settembre, che seguirà questo dibattito e la costituzione, la formazione di questa alleanza internazionale contro il terrorismo. A Newport, ve lo ricordo, c'era il vertice della NATO, ha portato avanti una strategia completa, ha colpito il settarismo, al secondo punto di questo suo progetto, attacca i paesi arabi, le leadership politiche, quelle religiose, dice siete voi che dovete respingere il confronto settario a partire da un confronto che deve finire, il confronto tra sunniti contro sciiti. Infine la promessa di una soluzione, ci vorrà tempo, ci vorranno anni per combattere questa guerra, questa battaglia, ma sarà inutile se in parallelo non si creerà un contesto economico, sociale, di libertà, di multiculturalismo, di protezione dei bambini dall'indottrinamento per l'odio e per la violenza. Ecco, se non si faranno tutte queste cose, beh, questa guerra rischierà di essere inutile. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive i tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. C'è stato anche un intervento del Presidente del Consiglio, un intervento molto efficace di Matteo Renzi davanti a Council of Foreign Relations. Domani Renzi sarà a Detroit. Vi racconterò l'episodio di Renzi sia a New York che a Detroit domani, ed eccoci intanto alla canzone del giorno. Barack Obama ha dunque chiesto al mondo intero di riunirsi. Devo dire, la giornata di ieri è stata una giornata difficile, anche sul piano emotivo. Ci rendiamo conto dei rischi che ognuno di noi può correre. Quest'appello all'unità del mondo credo che richieda una risposta inequivocabile. E dunque, pensando a una canzone che possa ispirare all'unità e al multiculturalismo, di Michael Jackson, We Are the World. I used to feel there, and it showed that we was heeding his stare. We are the world, we are the children. Dalle Nazioni Unite è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.